Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. 20.01 dai microfoni di Onda Rossa, i 87.9 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, sul web e per il mondo attraverso il sito ondarossa.info. Eccoci dunque ad aprire con L'odio al comunismo di Bertolt Brecht, appunto nella versione che abbiamo qua, arrangiata da Hans Eisler, che appunto ha dato la musica a questa che è appunto un'opera, l'opera di Mutter, sempre di Bertolt Brecht, che abbiamo qua, da cui abbiamo tratto quest'aria, l'Ode al comunismo appunto, che apre nel finale, chiude insomma tutte le trasmissioni, tutte le nostre qua puntate qua Radio Onda Rossa di Allegro con Fuoco, che saluta tutti quanti coloro che sono all'ascolto. Un saluto sempre più particolare, più cauroso, naturalmente, a chi ci segue privato della propria libertà personale, tutti i compagni e le compagne, il proletariato imprigionato o costretto agli arresti domiciliari o alla latitanza. Quindi apriamo questa sera con, per dare, ogni tanto lo facciamo, diamo un po' la continuità alla musica di Eisler, e con un pezzo appunto che ci viene sempre dalla sua penna, un pezzo dal titolo Sinfonia da camera, un pezzo articolato in vari movimenti, un'invenzione del primo movimento, un corale, Barbe-Beitung, il secondo movimento, uno scherzo, il terzo movimento, uno studio, il quarto movimento, un finale, il quinto movimento. Nella interpretazione qua, nella versione che abbiamo della Leipziger Kammermusik Vereinigung des Gewandhaus Orchester, diretta da Max Pommer. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo, che è appunto un pezzo orchestrale di Hans Eisler, e poi andiamo avanti con altra musica, sempre qua dalle frequenze di Onda Rossa, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre al telefono 06 49 17 50.

Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio, sul web ondarossa.info. Era questo quindi l'ascolto di Hans Eisler in questa sua versione orchestrale della, diciamo, degli ascolti che siamo abituati di solito a fare di Hans Eisler, come tra l'altro appunto la sigla di che apre e chiude il nostro programma, il Lode del comunismo, l'interpretazione musicale di Lode del comunismo di Bertolt Brecht. Quindi questa era la Kammersinfonie, un pezzo orchestrale interpretato dalla Leipziger Kammermusik Vereinigung des Gewandhaus Orchester, diretta da Max Pommer. Abbiamo sentito anche gli strumenti solisti, che erano il pianoforte di Gerhard Herber e l'organo Hammond di Volker Brötigam, se abbiamo letto bene. Quindi questo era Hans Eisler, che cede il posto a Franz Schubert, di cui ci andiamo ad ascoltare, tratto da Improvvisi per pianoforte, opera 90, e classificata con il D899. Ci andiamo ad ascoltare il terzo dei tre improvvisi, il numero 3 in sol bemolle maggiore. Qua abbiamo il pianoforte solo di Silvia Capova, e quindi un buon ascolto, e poi andiamo a prendere altri autori. Quindi sempre le frequenze di Onda Rossa, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, Allegro con Fuoco, sempre fino all'ultima vibrazione del pianoforte, questo bellissimo pianoforte suonato da Silvia Capova, che appunto da cui abbiamo ascoltato l'improvviso numero 3 in sol bemolle maggiore di Franz Schubert, facente parte appunto di quest'opera, opera 90, classificata con il D899. Quindi questo era uno Schubert molto riposante, che ci vuole, diciamo, un po' preparare all'opera successiva che andremo ad ascoltare. Infatti l'avevo accennato la volta scorsa che avrei recuperato un'opera del maestro, insomma, che ci ha lasciato nei primi mesi del 2016, Pierre Boulez, e appunto abbiamo Pierre Boulez, che appunto vive tra il 1925, appunto, come sappiamo, e ci ha lasciato nei primi mesi del 2016. Di lui ci andiamo ad ascoltare un'opera completa per orchestra, Notation, composta tra il 1945 e rivista nel 1978, un'opera che si compone di 4 movimenti: Fantasque, Modere, il primo movimento, Ritmico, il secondo movimento, Très Modéré, il terzo movimento, e Très Vif, Stridant, il quarto ed ultimo movimento, molto vivo e stridente. E attenzione a questo, all'ascolto di questo ultimo movimento, il tutto per la Wiener Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado. Quindi a voi Pierre Boulez in questa sua composizione, sempre qua dalle frequenze di Radio Onda Rossa, 87.9 di Radio Onda Rossa, e sul web ondarossa.info. Yeah. Radio Onda Rossa 87.900 della modulazione di frequenza per Roma e per Lazio sul web ondarossa.info. Sì, era questo un pezzo appunto dal vivo di Pierre Boulez, Notation 1-4, una composizione del 1945 rivista nel 78, che si componeva di quattro movimenti nella interpretazione della Wiener Philharmoniker diretta da Claudio Abbado. Era questo quindi questo Pierre Boulez, appunto, che ci ha fatto sentire questo ultimo movimento stridente, molto bello, molto molto denso. E vabbè, dopo questa ondata musicale, questo cataclisma che vi ho fatto ascoltare, vi faccio un po', vi metto un pezzo un po' più tranquillo, e lo vado a prendere da Johannes Brahms. E ci ascoltiamo, tratto dalla sonata per violoncello e pianoforte numero 2 e in fa maggiore, opera 99, il secondo movimento, adagio affettuoso, nella interpretazione che abbiamo qua della violoncellista Jacqueline Dupré e al pianoforte Daniel Barenboim. Thank you. Radionda Rossa, Johannes Brahms, meraviglioso pezzo tratto dalla sonata per violoncello e pianoforte numero 2 in fa maggiore, opera 99, era il tempo, il secondo tempo, l'adagio affettuoso nella versione appunto del violoncellista Jacqueline Dupré e del pianista Daniel Barenboim. Jacqueline Dupré, una grande violoncellista scomparsa prematuramente, e si sposò appunto al Daniel Barenboim, che appunto niente, la perse la sua vita, perse la sua arte nel suonare questo strumento, il violoncello, e comunque ci rimangono di lei molte opere, molte tracce anche su molti video su internet e anche filmati vari. E comunque questo era Johannes Brahms, che cede il posto a quello che sarà l'ultimo pezzo per questa sera. Quando sono le 20:53 ci andiamo ad ascoltare Yannis Xenakis, classe 1922, e nel pezzo Tracce. Yannis Xenakis, un compositore, un matematico, un architetto, fu un combattente anche durante la Seconda Guerra Mondiale, venne preso prigioniero dalle truppe naziste, riuscì a fuggire dalla prigione e riportando una grossa ferita, una grossa e cicatrice, insomma, che segnò tutta la sua vita. Comunque un grandissimo autore, di cui ci andiamo ad ascoltare appunto questo pezzo Tracce nella versione dell'Orchestra Filarmonica del Lussemburgo, diretta da Arturo Tamaio, sempre un buon ascolto da queste frequenze, gli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza. Era questo l'ultimo ascolto di Yannick Xenakis in tracce in questa versione dell'Orchestra Filarmonica del Lussemburgo diretta da Arturo Tamaio. E quindi quando sono le 21 parte la nostra sigla che appunto apre e chiude il nostro spazio qua sulle frequenze di Onda Rossa. L'odio al comunismo di Bertolt Brecht, nella musica di Hans Eisler, nelle parole di Carmen.